Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Giulio Caperdoni in vostra compagnia anche quest'oggi, eclettica tutti i giorni, fra le 19 e le 20, dal lunedì al venerdì, e poi disponibile anche in podcasting. Tra le diverse modalità di fruizione di Eclettica c'è anche il satellite e anche lo streaming internet. Tutti i dettagli su myspace.com/eclettica, oppure se volete ricevere direttamente nella vostra casella di posta le playlist della trasmissione con altre informazioni, vuol dire tutto questo essere iscritti alla lista nera, e per farlo basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com. Che cosa vuol dire fruire Eclettica in questo modo? In podcasting tramite l'aiuto della lista nera? Beh, mi è arrivato un mail cortissimo in settimana da una delle iscritte alla lista nera, nel caso è Alice da Torino, città non più coperta dalle frequenze di Rock FM, che ricevuta la playlist della scorsa settimana mi scrive: mi basta leggere il nome dell'autore che hai scelto e pregustare la musica per risponderti con sicurezza che mi piacerà un sacco il podcasting di questa settimana, ne ho la certezza assoluta, vado a scaricarlo. Il moscone si allontanò, tornò indietro ronzando. Giuseppe alzò la mano per scacciarlo. Gabriele gli bloccò il braccio con mossa rapida. «Stai fermo, altrimenti si accorge di noi», disse a bassa voce, portando il dito alle labbra. Giuseppe riprese la posizione di prima, limitandosi a scostare l'erba che gli copriva la visuale. Il caldo del primo pomeriggio rendeva l'aria densa e appiccicosa. Attorno il rumoreggiare di cicale e canti di uccelli, l'eco lontana di un trattore. I ragazzi, le magliette incollate al corpo per il sudore, osservavano un ciliegio a poca distanza dal fossato in secca dove si erano accovacciati. L'albero, dal tronco enorme e i rami carichi di frutti, segnava il limite del podere di un anziano contadino, Clelio Mantegazza all'anagrafe, ma da sempre conosciuto come Crapun. Questo era l'incipit di Andiamo a bere la pioggia di Raffaele Mangano. Sounded good. It always sounded bad. Get away.

collaborazioni di Montag, per esempio con gli M83, lo dico all'italiana per semplificare il discorso, oppure le Au Revoir Simone. Invece il prossimo brano è un brano italiano, estratto da un album intitolato Distratto, ma però lui lo avevamo lasciato come cantante della formazione Il Parto delle Nuvole Pesanti, poi come protagonista al cinema della Vera Leggenda di Tony Vilar, e ora arriva con il suo primo album solista. Si chiama Peppe Voltarelli e questa è Italiani Superstar. Sembra diversa. Strade senza nome, siamo volti induriti dal tempo. E la polvere risponde sempre, parole nel vento. No, tu non l'ascolterai, non fa rumore. Tu non la canterai, nemmeno ora. Italiani veri superstar. Bruciano d'America, italiani veri superstar, al di là del mare, tra bugie di verità, bruciano d'America. Frankie parla piano e racconta le vite passate. Beve vino, carte, nostalgia delle terre lasciate. Angelo non parla mai e si nasconde soltanto. E la polvere risponde sempre, parole nel vento. No, tu non l'ascolterai, non fa rumore. Tu non la canterai, nemmeno ora. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra miseria e santità, bruciano d'America. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra bugie di verità, bruciano d'America. Da di da di da da, da di da di da da da da. Da di da di da da, da di da di da da da. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra miseria e santità, bruciano d'America. Italiani veri superstar, al di là del mare, tra bugie di verità, bruciano d'America. Da di da di da da, da di da di da da da da. Da di da di da da. Sono uscito di testa il 6 settembre del 1999. Lo ricordo bene perché era il giorno del mio 30° compleanno. La mia data di nascita ha sempre provocato ilarità. Quando dovevo dichiararla, i presenti sorridevano, ammiccanti, per via del volgare riferimento ad una posizione del Kama Sutra, peraltro nemmeno troppo originale. Ve ne sono di più interessanti e acrobatiche, ma la gente si accontenta di poco per sghignazzare. E così mi sono portato dietro quella data, 6-9-69, come se fosse una colpa o un difetto fisico. A dir la verità dovrei ammettere che non sono mai stato del tutto normale e che già da bambino avevo comportamenti inusuali. probabilmente fu l'approssimarsi del nuovo millennio a provocare la crisi irreversibile. Questo era l'incipit delle Lumache non bevono vino di Raffaele Mangano. My given name is Benjamin Buford Blue. People call me Bubba. Just like one of them old redneck boys. Can you believe that? My name's Forrest Gump. People call me Forrest Gump. With Dopo esserci ascoltati gli Hot Chip con il loro unico inedito estratto dal DJ Kicks che hanno compilato, è stata la volta di un artista italiano, Fabio Parrinello, che però si nasconde dietro uno pseudonimo, Black Eyed Dog, ripreso da una canzone di Nick Drake. Apro la parentesi, domani a proposito di Nick Drake ci sarà una sorpresa, chiusa parentesi. Nello scegliersi uno pseudonimo si è voluto ispirare ad artisti da lui amati come Conor Oberst, che conosciamo più come Bright Eyes, come Bill Callahan, che conosciamo più come Smog, come Will Oldham, che conosciamo di più come Bonnie Prince Billy. Ha appena pubblicato un album di debutto dal titolo Love is a Dog from Hell per la Ghost Records. Ed ora, la gallina degli Urla Obin Polen. Dancing with the devil. strip down. You wanna share your life.